c'è il volume di registrazione, c'è nel 0 è quello che sono io, giusto? Channels 0 0 e sopra Brunello. Ah, ho capito. Vabbè. Gracias. No, a un certo punto non ti ho sentito più, ma sei ritornato. Per tipo 30 secondi non ti ho più. Infatti, ecco.